Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Oggi presentiamo un menù pasquale. Come antipasto presentiamo un nido di broccoli. Primo piatto, risotto con agnello e funghi. Secondo piatto, cotolette farcite. Ingredienti per 4 persone: 8 costolette di agnello, 120 g di prosciutto cotto. Pasqua. Quale migliore idea di poter utilizzare asparagi, pancetta e ovetto di quaglia? Semplicissimo. Gli asparagi sbollentati per 3-4 minuti in acqua calda e poi naturalmente subito nell'acqua ghiaccio. Fetta di pancetta o addirittura anche guanciale, subito nella piastra. Ok? Breve passaggio di piastra, ok? Successivamente utilizzeremo l'ovetto di quaglia, particolarissimo, piccolo, versatile e anche per un ottimo aperitivo. Come vedete, brevissima cottura, 3-4 minuti. Una volta che la pancetta si era appresa, mettiamo l'involtino nel piatto, in questa maniera. Ma vi siete resi conto che, nonostante abbiano sganciato in Afghanistan la bomba delle bombe, la prossima è quella atomica, nonostante che il paese sia attraversato da un'infinità di dilemmi, di problemi di ogni tipo, di tipo istituzionale, di tipo economico, di tipo finanziario, di tipo sociale, no? Tanto, nonostante che ogni giorno massacrino qualche donna, accade in maniera ormai abbastanza sin troppo frequente per poterne ancora parlare senza sentirsi dire dalla gente: è ancora con questa storia. Nonostante questo, ci si avvicina bene o male alla Pasqua, che al di là di ogni concezione religiosa, ogni scansione liturgica del proprio anno solare, è comunque un momento in cui un attimo ci si può rilassare, una festa gioiosa. È sempre stata una festa gioiosa. Non si parla altro che di mangiare, ma non come una volta se ne parlava, dice che bello, per Pasqua mangeremo questo e quell'altro. Poi noi ancora che siamo della generazione per cui veramente era magro fino a che non era il giorno di Pasqua, e quindi vedevamo la credenza con i capocollo, con i salami, con i prosciutti, con le salsicce, che era chiusa chiave, non si poteva toccare. Le pizze col formaggio che abbiamo visto fare, abbiamo sentito il profumo nell'aria delle contadine che le facevano nel forno a legna all'aperto, nell'aia, chiuse dentro, non si potevano toccare, lì ferme, coperte con un panno. Potevamo portarle soltanto in chiesa a farle benedire, assieme alle uova sode, le colombe che allora si facevano dentro casa, non si comprava quella già fatta, e l'ovetto di cioccolata, uno a testa, mica come oggi che ti portano con l'autotreno le uova di cioccolato a casa e si cominciano a mangiare già dal giorno di Santo Stefano e si finiscono di mangiare per Ferragosto. Beh, quella era la Pasqua tradizionale in cui si aspettava con l'acquolina alla bocca, era il tripudio della lussuria gastronomica la mattina della domenica di Pasqua, perché fino a quel giorno eravamo stati a stecchetto. Beh, oggi se ne parla in altra maniera, sotto un altro punto di vista. Quello che non bisogna mangiare, capito? Già da oggi sono settimane, non facciamo altro che vedere questi. Non prendo posizione, non me ne importa nulla dei vegani, non vegani. Già è sin troppo frequentato questo argomento in questa radio, anche in maniera abbastanza divertente e decisa, per non entrare anch'io nella scia lunga di quelli che dicono se mangiano o non mangiano gli agnellini. Però, sinceramente, non è un problema che mi attraversa. Spesso a questi microfoni parlo di problemi ben più gravi, ben più importanti, ben più legati alla materia umana, non in generale, un senso generale di essere senziente. Tra poco pubblicherò nel mio profilo nei social una bella immagine in cui c'è la presidenta della Camera Laura Boldrini con due pecorine abbracciate negli palazzi istituzionali, e l'ex presidente del Consiglio, cavalier Silvio Berlusconi, che dal biberon ha un altro agnellino, quello però lavato con soufflan, con l'ammorbidente, pulito, bello, una nuvola bianca, mentre le due pecorelle che si è presa la Boldrini sono pecorelle un po' più rozze, sono pecorelle da centro sociale, hanno il pelo ispido, un po' zozzetto, e probabilmente c'è questo bel profumino che hanno comunque le persone che calcano la polvere delle strade facendo testimonianza di sé. Beh, tutto in questo pecorume generalizzato, mi rendo conto che dei problemi reali, di ciò di cui veramente tradizionalmente ci siamo sempre occupati per le feste comandate, anche con un minimo di pietismo ipocrita magari, però ci si occupava di cose che camminavano, parlavano, ragionavano, avevano un cervello, avevano una storia, avevano una vicenda umana. No, oggi si parla soltanto dell'astinenza che si avrà il giorno in cui si dovrebbe mangiare, il giorno della festa, del tripudio, in cui omnia licet, ci si ingozza quando si vuole perché si è digiunato, ci si è purgati e si partecipa al tripudio generale, anche se non si ha una visione trascendentale dell'esistenza. Beh, si parla soltanto, si ci guarderà l'altro e si cercherà di spiare il vicino se sente l'odore di arrosticino che viene dal suo giardinetto. Allora quindi saremmo autorizzati a lanciarci anche noi la madre di tutte le bombe, perché lì si consuma qualcosa che assomiglia a un omicidio. Beh, io questa mattina voglio senz'altro alleggerire questa tensione, alleggerire questo clima inquisitorio sul pranzo di Pasqua, e vi dirò a chi chiama l'800240024 cosa mangerete a Pasqua, cosa farete il giorno di Pasqua. Non perché la Pasqua sia per voi necessariamente una festa da osservare, ma un giorno in cui non fate una mazza perché non lavorate o pochi lavorano quel giorno lì, avrete a disposizione campi aperti, tavolate, familiari, rimpatriati, che mettete a tavola, perché vi porrete anche voi il problema: chi mi darà il menù di Pasqua più infame dal punto di vista più antitetico rispetto a quello che è il trend corrente, io lo gratificherò con un libro infame. Voi direte: ancora i libri infami? Sì, ho dei libri infami che vi giuro non ho mai osato dare prima per il loro valore oggettivo, oltre che naturalmente di prezzo di copertina. Già sono inseguito dagli editori che ci dicono continuamente: vi prego, almeno se date il libro infami non citate la casa editrice, non ne possiamo più, per noi è una vergogna. Io la vedo al contrario, vedo che è un marketing perfetto, dovreste essere grati. Comunque, se questo volete, oggi non dirò la casa editrice, ma dirò i titoli dei libri infami che già sono qui, mi occheggiano, mi tentano, altro che degli agnellini che mi dicono: sai, prendimi, prendimi, come nei sogni di Homer Simpson, che sogna il paradiso terrestre con il maialino che si stende e gli dice: prendimi, e lui stacca la costoletta e il maialino dice: che bello, mangiatela, e gli ritorna immediatamente la costoletta. Certo, sarebbe il mondo ideale in cui facciamo la rosticino, dopo 5 minuti, quando ce lo siamo già tolto con lo stuzzicadenti dall'infradento, è già pronto l'agnellino e fa: beh, beh, vuoi fartene un altro? No, non può essere così. Il mondo a me è una valle di lacrime e siamo nati per soffrire, compresi anche gli agnelli. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Otto zero zero ventiquattro inizia la grande caccia al libro infame. Come procurarsi un libro infame, come guadagnarsi questa gratificazione estrema che soltanto in pochissime occasioni dell'anno concediamo ai nostri ascoltatori? Questo è il nostro premio, è la nostra gratifica, è il nostro segnale di affezione. Vi regaliamo libri, ci sono trasmissioni che vi chiedono di risolvere quiz, di mandare moduli, vi fanno parlare con gli autori, vi raccontano le recensioni, vi ammorbano con i premi letterari per darvi poi un libricino così una volta ogni tanto, che vi arriva a casa magari con la dedica dell'autore. Non vi regaliamo, vi diamo palate di libri. L'editoria italiana è uno dei settori più prolifici, abbiamo una redazione piena di libri. Cosa farne di quei libri? Sì, possiamo in parte regalarli alle persone bisognose, in parte li mandiamo alle carceri, in parte li mandiamo ai centri anziani, ma ne abbiamo talmente tanti. Tutti gli italiani vogliono scrivere, tutti vogliono lasciare traccia del loro passaggio terreno scrivendo un libro, raccontando una storia, e noi diamo senz'altro maggior forza a questo sforzo loro e dei loro editori regalando libri infami. La qualifica di essere infame questo libro non deprezza il libro, anzi lo gratifica ancora di più. Una sorta di gioco di capovolgimento di ogni valore: il libro infame è il libro più ambito, il libro istruttivo, il libro edificante, il libro culturalmente accettabile. No, è un libro che non vuole nessuno, nessuno vuole insegnamenti, uno vuole l'infamità, avere il contatto con l'infamità. Però naturalmente qualcosa deve avere in cambio. Infamità contro infamità. Raccontatemi il vostro futuro pranzo infame di Pasqua e forse avrete libro infame. Franco. Dica. Il suo pranzo infame di Pasqua, purché sia vero. Ma noi facciamo semplicemente un antipasto all'italiana, ma proprio leggero, con fettati e salumi, cannelloni di magro e con carne, e a Natale all'arancia. Cioè, magro con carne che vuol dire? Il magro vuol dire con erbette e ricotta. Cioè, chi vuole mangia magro, chi vuole mangia con carne? No, no, noi facciamo proprio due cannelloni magro e due con carne, proprio... Quindi sarebbe ricotta e spinaci e l'altro con la carne dentro. Carne mangiare dentro il ragù. Ma per rispettare le scelte di chi vuol mangiare vegetariano, questo? No, perché io rispetto i vegetariani e i vegani, però... Non gliene frega nulla. Caso no, io dico vegano, stammi lontano. No, no, vabbè, ma no, adesso non voglio trappolare, ma non a me non interessa. Io sono molto aperto, laico e libero, ognuno mangia quello che vuole. Ecco, però lei tiene conto l'antipasto all'italiana che dice sono solo salami, capocolli, spuntature. Sì, cioè quattro funghetti sott'olio, quattro crociopini. Quindi, diciamo, il vegetariano si accontenta dei sott'olio e lascia il grosso agli altri. Quindi c'è un po' di infamità comunque in questa cosa lì, perché cioè... ma poi mi scusi, ma nell'antipasto all'italiana, in effetti, dietro c'è un grido di dolore e fa se invece fosse beh, farebbe più tenerezza. Ma guardi, io non lo so, perché tutti rispettano gli agnellini, rispettano, se poi ci sediamo durante l'anno bisogna vedere cosa mangiano. Altra cosa, quel povero anatroccolo potrebbe essere così fa, che come Paperino, che lei mette lì caramella, ci mette l'arancia dentro, li infila nei luoghi innominabili, le peggiori le cornie per il suo piacere e la sua gola, non le fa un po' pena? No, no, perché noi vediamo le papere e siamo tutti oh che bello, che bello, e poi magari mangiamo tutt'altro, quindi è un animale come gli altri. E con le zampe cosa ci si fa? Con le zampe palmate si mangiano in qualche maniera, si friggono oppure no? No, le zampe no, guardi, io veramente non lo so per cucinare mia moglie, però le zampe penso che siano scarto. E le si dà da mangiare al cagnolino, ecco, se ce l'avete. Penso che andranno nell'umido e vanno a incentivare i... Ci fanno i giusti, ci fanno le pressatelle, ci fanno i giochettini. Vabbè, guardi, cominciamo così, cominciamo lentamente, perché ancora non è che mi avete proprio sorpreso, però già qualcosa cominciamo. Al signore che fa l'anatra all'arancia, che è qualcosa che esce un po' fuori dai menù tradizionali, perché è già un menù abbastanza raffinato, però va bene, vuole dare un tocco di raffinatezza al suo pranzo pasquale, regalo il libro di Sabina Scampini, Perché le donne valgono, anche se guadagnano meno degli uomini. Vorrei dire l'editore, ma non lo dico perché gli editori si offendono. È un bel libro, un libretto verde, un libretto che l'aiuterà, male che vada, ci scola la frittura il giorno di Pasqua. Andiamo avanti con Renato. Renato? Vabbè, Renato non c'è, peggio per lui. Paolo? Sì, buongiorno, salve. Un bel pranzetto di Pasqua, cosa fa lei? Allora, il mio problema è che sono anche un po' schizzinoso col cibo, come cucina mia madre, non è che mi piace molto, comunque... Perché, scusa, ma scusi, è masochista, allora perché torno ogni anno a mangiare quello che cucina? Mi tocca, collo, ma, bisogna... Allora, mi spiega una cosa, ma lei pensa che se non va a mangiare a Pasqua con sua madre, s'apre il cielo, esce il ditone di Dio che la fulmina con una saetta, non succede niente? No, assolutamente, allora perché, no. E perché si deve rovinare la vita? L'ha avvelenata tutta la vita sua madre. Sì, ma tutta la vita l'ha avvelenata con delle cose schifose. Perché deve andare a continuare a mangiare le cose schifose di sua madre? Ma non è mia madre che cucina schifose in sé, sono io che sono anche schizzinoso, quindi il problema è doppio. Ma dal suo punto di vista è comunque schifoso quello che mangia. Quello sì, difatti per me il pranzo è l'antipasto, perché gli affettati... Cos'è che le piace, che non le fa schifo? Vediamo un po' la sua schizzinosità da cosa è determinata. Cos'è che le piace? Carne alla griglia. Buona, infatti normale, roba semplice. Affettati vari, formaggi vari, pesce. Sì. Quello che non mi piace sono i bolliti, ma il capretto al forno mi fa schifo. Sì, ma non al forno mi fa schifo. Non mi è mai piaciuto, perché l'odore di forno, viene fuori quell'odore di forno che è troppo. Il bollito, la gallina bollita, qualcosa di mi risulta. Vabbè, quella è roba invernale, roba bollita, roba invernale però. Il problema è che io mangerò l'antipasto, mangerò l'uovo di Pasqua. Punto. Tra il mezzo spiluccherò un pochino qualcosa di primo, i gnocchi, spiluccherò un po' la carne, ste capretto, ste coniglio e niente. Vabbè, certo. Si impone comunque, si impone una tortura, perché tutti staranno lì a ingozzarsi di untumi, cose grasse, sbrodolati di brodo di pollo, la gallina lessa infilata nelle salse, vedrà tutti lì pieni di zozzure, lei starà in un angolo, mangerà due olivette e un pezzetto di uovo di Pasqua. Comunque questo merita questo suo sacrificio, vediamo che già andiamo avanti, per lei darò qualcosa che veramente vale, aspetti, esco fuori fuoco di un microfono perché... Sentite, devo allontanarmi e poi sono avvicinato. Ecco, nuovamente sono a fuoco del microfono. Ha un libro che ha avuto una sua storia, un suo valore estrinseco, e si è parlato molto di questo libro. Già non l'avevamo donato, un ascoltatore ce l'ha rimandato indietro, quindi è di seconda mano. Però è nuovo, è intonso. È un libro che comunque ha un suo bel prezzo, perché sono 17 euro che lei risparmia. È il libro di Beppe Vessicchio, che è stato il momento clou. Questo maestro Vessicchio, che per anni è stato una delle icone più palpitanti di Sanremo, l'anno che non ce l'hanno mandato è stato presente lo stesso, lamentando non l'avevano invitato, con un libro. La musica fa crescere i pomodori, di Beppe Vessicchio. Il maestro di musica ha scoperto che in realtà la musica fa crescere i pomodori. Lei che è schizzinoso, i pomodori cresciuti con la musica di Vessicchio probabilmente riusciranno a vincere le sue difficoltà alimentari. Gianni, fermi tutti, devo fermarmi un attimo, è 28, pronti, ho dato soltanto due libri infami, almeno un'altra trentina. Se mi racconterete sulla linea d'onda dell'ultimo ascoltatore che mette dei motivi di infamità nel suo pranzo pasquale, questa non è una trasmissione gastronomica, non sono il gastronauta, non mi interessa cosa mangiate, mi interessa il lato infame, il lato di sofferenza, il lato di compromesso che c'è dietro il vostro desinare pasquale. 800 24 00 24. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Melog, cronache meridiane. Prosegue il nostro cammino, interessato, allo stesso tempo curioso e sorpreso, attraverso il menù infame del vostro giorno di Pasqua. Non raccontateci storie, il pranzo di Pasqua non è soltanto quello che si mangia, ma è anche quello che bisogna mandare giù, non è soltanto un appesantimento di fegato per le leccornie messe in tavola, ma anche per le persone che si deve frequentare necessariamente nel giorno di festa familiare. Quindi più mi raccontate questa versione dell'idillio pasquale e più sarete gratificati con un libro infame. Renato. Pronto, Renato in linea. Allora, andiamo avanti. Cosa mangia lei, cosa deve mandare giù e cosa in realtà mangia il giorno di Pasqua? Ma si ha detto che doveva darne di lei perché io sono vecchio. Questa non mi piace. Ma io non la vedo se è vecchio. Sto scherzando chiaramente. Sta dando segni di sovraesposizione etilica, devo dire, ma non mi sembra vecchio sinceramente. Comunque andiamo avanti, forza. Sovraesposizione etilica per questo? Lo so, vabbè. Assolutamente. Allora, non bevo quasi il vino, però dico, antipasto di coratellina d'agnello, primo fatto di lasagne verdi e lasagne rosse a seconda del desiderio, i secondi sono due, l'agnello fritto e l'agnello arrosto, il classico abbacchio arrosto. Però è un po' monotono, manca solo, ci mette il dolce d'agnello e il caffè con l'agnello dentro, è tutto agnello. Lei ha perfettamente ragione, ma io sono... Non c'è fantasia però, scusi. Ha ragione, no. Cioè prende l'agnello, lo fa in 10 modi, ha fatto, ha risolto. Esatto. Va un po' movimentato, l'infamata è proprio questa, è tutto agnello. Ma davvero è così? Come no, certo, questo è il pranzo tradizionale delle Marche. L'agnello, se lei mi permette, dico a chi è che mangia l'agnello, che non è vegetariano, vegano, è l'agnello di Annifo, che io ricerco. Annifo è un paesino sopra Foligno. Sì, lo so, sono le mie parti. Addirittura. Allora dico, è il miglior agnello d'Italia e guai a chi non lo prende, piccolino. Però all'8 dici ma pensi che culo per un agnello nascerà Annifo, che sono i migliori agnello d'Italia. Tutti, esatto, gli agnelli Annifo diranno: che bello, siamo nati, dove siamo? Annifo, caro agnellino. Diranno: oh, che bello, che sfiga, ma potevamo nascere, che ne so, a Piazza Montecitorio, che almeno ci adottavano e stavamo lì tranquilli, scacazzavamo per gli augusti palazzi e nessuno ci mangiava. Vabbè, dai, mi è piaciuta questa cosa, le regalo un bel libro, Brunella Schisa, poi mi ricordo anche che uno che conoscevo, La donna in nero, una travolgente storia d'amore nella Parigi dell'Ottocento. Perfetto, non mangiavano coratella d'agnello, ma s'accontenti perché questo passa al convento. Franco, buongiorno. Oh, buongiorno, buongiorno Gianluca, che grande, grande piacere. Io volevo un attimo affievolire quell'infame e insomma mi sento un po' a disagio. Ci vuole lei deve raccontarmi qualcosa di infame del suo pranzo. No, sono io che mi sento a disagio, dover raccontare una cosa mia che potrebbe essere infame, però beh, io sto al suo gioco. È un momento, questo di espiazione e di penitenza, la consideri una confessione. Sì, infatti. Quindi, infatti. Dica esattamente qual è il suo peccato di infamità, Pasquale. Oddio, non lo so se non. Io vorrei affiorire il tutto perché a pranzo c'è un vescovo. È un peccato enorme questo. Finirà fra le fiamme dell'inferno per tutta l'eternità. Guardi, no, non me lo dica perché mia moglie da stamattina sta mandando in giro a fare spesa di qua. Ma perché chi si mangia al vescovo? Allora, vediamo un po'. Quando uno c'è un vescovo a pranzo, il giorno di Pasqua, sì. Dove lo siede? Capotavola? Scapotavola? Assolutamente. Ma viene col cappellino viola, con la fascia da vescovo? Guardi, no, io presumo di sì. No, la fascia non lo so, però sì. Il cappellino viola. La croce, l'anello, e gli baciate l'anello quando entra, sì? Beh, no, lui non credo, perché sei un po' di famiglia, voglio dire. Ma è un parente. Alla lontana. Vabbè, parente, beati. Parente di mia cognata, ecco. Guardi, io devo il fatto che posso sfamare i miei figli al fatto che mi sono inventato di averci un parente vescovo. Lei ce l'ha davvero? Io ce l'ho davvero, però non ho ancora pensato. Diciamo, ma il vescovo esprime delle preferenze e dice già per Pasqua voglio questo? No, perché siccome noi lo conosciamo da quando lui era ragazzino. Quando era chierichetto? Era quella chierichetto, l'abbiamo visto crescere, diventare grande. Seminarista, diacono, prete, arciprete, monsignore, vescovo. Per cui adesso vescovo, insomma. Pensi diventa papa? Una bella botta di fortuna. Ho 68 anni, non credo che lo vedrò. Comunque non. Vabbè, che si mangia? Che si mangia al vescovo? Mi mangia come lui è di Minervino, sai, quel paesino qua della Batte. Lei forse lo conosce perché l'ha visto nel film della Westmüller, sì. Quello dei basilischi, cioè, è stato girato. Dove vai a Roma? Che vai a fare a Roma? Tu tutta una strada non c'era niente. E capito? Arriva la bionda con la macchina, lui vorrebbe andare dietro a lei. Ma dove vai? Resta qui. Tanta gente lì che ha recitato in quel film, guardi, una cosa incredibile. Sì, ma che si mangia? Si mangiano i cardoncelli, che è una verdura di qua, che nasce spontanea, tutta con le spine. A vederla, sì, sarebbe, ho capito, il cardo con lo stesso somari. Sì, non ce lo mangerebbero neanche le capre. No, i somari se lo mangiano, però. Con l'agnello, e poi l'agnello come Dio comanda. Che il vescovo se lo mangia, certo. Penso proprio di sì. Ma lo benedice prima di mangiare? Sì. Guardi. Io in privati potrei anche dirgli di sì o di no, però non credo che lo benedirà. Ma Ferrutti dopo che ha mangiato il vescovo. Magari faremo una preghierina prima, perché come Dio comanda, insomma. Beh, sì, certo. Una persona grande, di grande rispetto, e noi a modo. Però si mangia l'agnello, sì. Non ho pranzato con lui da quando era prete, praticamente. Adesso quando è diventato vescovo, non so se lui. Che cosa ha cambiato delle sue abitudini? Mangerà di più adesso, che discorso? No, non credo. E come no? Valvesco. Cresce la fame, cresce come cresce. Beh, senta, allora a sto punto, mangia il vescovo, gli mangia l'agnello. Poca fantasia, ma è riscattato dal fatto che l'infamità totale che è un vescovo a pranzo. Non potete dire le parolacce, non potete dire le barzellette zozze, non potete mettere le mani nel sedere alle signore quando serve una tavola, che si fa, è una tradizione contadina, lo fa ognuno con la moglie, non è che è una cosa così. Però non si fanno, e soprattutto non si fanno i rutti e quelle cose alla fine del pranzo. Quindi, La parola mala di Giovanni Chianelli, che è un bellissimo libro scritto insieme ad altri autori, che leggo in quarta di copertina, la spiegazione di questo libro: sei uno stronzo, questa frase l'abbiamo pronunciata tutti almeno una volta nella vita, perché è sincero, bello, divertente, liberatorio, pericoloso, rivoluzionario dire una parolaccia. Lo studi bene, poi magari riesci a movimentare anche il pranzetto con il vescovo. Luca, buongiorno. Luca, ma perché non rispondete? Chiamate poi non rispondete. Luca, c'è? No. Pronto? Ecco, sì. Dai, rischi di perdere il libro. Ma cosa ti mangi a Pasqua? Pronto? Sì. Nicoletti, mi sente? Sì, certo, velocemente. Ah, buongiorno. Allora, io tanto volevo dire, sarò doppiamente infame. Io sono già infame a partire dalla preparazione, perché la legna che userò per cuocere la carne me la sono fregata nel parco di Migliarino, qua, che è vietato. Ha rubato la legna. Quindi cucina con legna furtiva. Sì, però è vietato, capito? Quindi se mi trovano mi arrestano, però... E invece cosa mangerà che fa scintille sulla legna? Allora, io comincerò alle 5 del mattino, preparo la catasta la sera prima. È l'osteria numero 1000, è una citazione colta. Prego, prego, cosa mangerà sopra? Preparo la catasta la sera prima, alle 5 del mattino la accendo, verso le 8 la brace è pronta e ci metto su un bel maialino che ci metterà circa 4 ore, bello farcito. Tutto di, intero, tutto intero? Sì, un maialino intero farcito di lardo. Infilato nel palo naturalmente. È logico, se no ci hanno detto Perugino, dice il maiale quando vede fare la punta al palo dice gli atti son belli, vuol dire, cioè... sì, in effetti non sarà tanto bene. Vabbè, lo starà bene, che discorsi, proprio doppiamente infame, dai, da partire, cioè chi ci fa la bava, che vuol dire ognuno, cioè, allora, che devo fare? Allora lo gira bene il maialino, quante ore deve starci sulla brace di linea ruba? Almeno 4 ore spostandolo, alzandolo, abbassandolo con molta attenzione, perché sennò però, poi si povero buca. Maiali, a me dispiace perché quest'anno non va di moda il maiale, va di moda l'agnello. Nessuno, non ho visto gente dare il biberon ai maiali, portare i maiali in giro per Montecitorio. E sarebbe stato molto più trasgressivo, secondo me, fare una battaglia per i maialini. Sono carini, maialini piccoli, rosa, teneri, sembrano Peppa Pig. Cioè, erano perfetti. Invece no, è andato di moda l'agnello. Visto come è fatte le mode? Uno comincia con l'agnello, tutti con l'agnello. Ci fosse stato uno che portava un maialino, almeno era una cosa diversa. Vabbè. Se lo ricorda il film del maialino, quello parlante, che si chiamavano tutti Large White, quelli sì. della sua famiglia, no? Lo so. Ecco. Era una bella storia, una storia bella, tenera, divertente. Vabbè, le regalo un libro che è abbastanza in tema con quello che lei farà il giorno di Pasqua. Carmen Bin Laden, Il velo strappato, la mia vita nel clan di Bin Laden. E questo è una parente di Bin Laden che ha raccontato la sua storia, quindi se lo legge mentre mangia il maiale, così allo stesso tempo è confortato da due tradizioni diverse, differenti e opposte. Grazie, andiamo avanti. Luca ha avuto la catasta di legna rubata. Stefano. Buongiorno, sempre un piacere. Dunque, il nostro pranzo sarà incerto come il nostro futuro, nel senso che andremo al mare e ci mangeremo forse un pranzo di pizza, del pesce fritto in spiaggia. Ma perché questa scelta di tristezza? Beh, perché è una scelta minimale, andiamo con la pizza, il pesce in spiaggia. Sì, ma perché poi ho già prenotato sia per domani che per la domenica di Pasqua per alla sera al ristorante. Però il giorno di Pasqua lei lo vuol passare guardando il mare? Ma soprattutto mollando i miei genitori di 88 86 che rompono alla grande a casa da soli senza la badante che si è presa i giorni di ferie. Quindi tornerà che è orfano e praticamente ha risolto anche il problema del loro mantenimento, questo vuol dire? E si libera anche un appartamento magari, chissà. Questa è una vera infamità. E le do, guardi, quello che era... il cosiddetto boccone del prete, che sta bene con l'ascoltatore di prima, il boccone del prete è il culo della gallina che viene lasciato al prete, che è la parte più buona perché c'è un'assonanza con gusti diffusi, quindi il culo della gallina è il boccone del prete. Il boccone del prete è un libro che in questo momento è un best seller, il cui protagonista è nelle cronache quotidiane. È il libro Chi non lotta ha già perso di Michele Emiliano, che si è spaccato i legamenti ballando la tarantella, quindi poverino, è una persona che passerà una Pasqua di dolore e di sofferenza anche per altri motivi, ma che non riguardano il tema di questa trasmissione. La mia vita nelle istituzioni e il mio progetto per l'Italia, che tutto sommato ci sta bene. Lei ha fatto una scelta di Pasqua di messa sulla riva del mare, anche Roma antica, si mangia il pescetto fritto e la pizza, però sa che ha prenotato al ristorante, quando il giorno di Pasquetta le torme, le folle andranno tutte in riva al mare a fare la scampagnata, lei tranquillo solo nel ristorante vuoto mangia, e quindi ha fatto una scelta senz'altro molto intelligente. Allora ripeto il numero di telefono 800 24 0024. Devo dire che il giorno dei libri infami io parlo almeno 10 volte quello che normalmente parlo durante una trasmissione, alla fine mi trovo senza voce, però sono gratificato dal fatto che acquisisco nozioni antropologiche su quelle che sono le abitudini degli italiani, il mutare delle abitudini degli italiani, acquisisco importanti informazioni sui posti da dove non andare naturalmente per avere una Pasqua tranquilla, e soprattutto mi sento buono qualche volta l'anno perché regalo qualcosa che poi non mi appartiene, che sono i libri infami. A tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Andiamo avanti nei pranzi infame di Pasqua che voi racconterete con un alto tasso di infamità per ottenere un libro infame. Nulla si fa per nulla e lo trovo giusto. Elena, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Perché perché questa tristezza? Il giorno di Pasqua, prego. Perché questa voce mesta? È un piacere sentirla. Ma una voce mesta, ormai, perché tocca a lei cucinare mentre tutti stanno giù. No, io ho già pronto, ho fatto il coniglio arrosto. Ma come, da quanto l'ha preparato? Ma sarà putrefatto il giorno di Pasqua? Ma no, è in freezer. Allo surgelo? Sì. E viene buono lo stesso? Buonissimo, poi faccio la polenta. Surgelata anche questa? No, la faccio fresca. Non è una roba invernale la polenta col coniglio, no? No, è buonissima, io la mangio spesso, sono una polentona. Vabbè, allora c'è già la polenta la fa lì per lì il giorno di Pasqua. La polenta la faccio lì per lì. Bella calda. Io ho il coniglio surgelato, sì. Lo scongelo, poi c'è un po' di baccalà anche alla vicentina, molto buono. Già congelato anche quello? No, quello lo quindi lei mette a tavola carne, pesce, coniglio e baccalà insieme? Sì, e un po' di polenta, poi il radicchio in salata, quello verde, e poi mi faccio le frittelle con le mele, che a me piacciono tanto. Ma chi c'ha a pranzo? E dov'è il lato infame? Qua è tutte cose normali. Chi c'ha? Normali, sì, no. Ma non c'è nessuno, chi c'è di infame quel giorno lì, che le rovinerà questo bel mangiare? Nessuno? No, io, sarà una giornata da sola come sempre, ma da sola? Ma tutta questa roba la mangia lei da sola? Da sola, ecco, l'infamità è questa. Non... Lei cucina da un mese, surgela per mangiare da sola. No, io ho cucinato in un attimo, faccio presto. Non quindi è l'apparecchio è questa bella tavolata, ci mette la polenta, il coniglio, il baccalà alla vicentina. Il coniglio, le mele, il vino buono, il vino, che ho preso ieri dal contadino. Si sta preparando tutto, le frittelle con le mele. Le frittelle con le mele, apparecchia col servizio buono, con la tovaglia bella, quella lì ricamata. No. Niente tovaglia. No, quelle tavaglie piccole rettangolari. Ah, quelle lì proprio da supermercato, da fast food. No, sono belle di vino. E i piatti come sono? I piatti sono normali. Non quelli, il servizio, non so, lei ha avuto mai un corredo di nozze? No, ho cambiato casa, ho soltanto tre piatti, tre fondi, tre piani, eccetera. Vabbè, potrebbe invitare due persone. Ah sì, ma niente, dopo niente. Vengono a prendere il caffè di amici. Ma prima lei mangia, si ingozza, poi vengono e spiluccano gli avanzi. Ma non ingozzo, perché io mangio poco. Poco, scusi. Anche soltanto un boccone di coniglio, un boccone di polenta, un boccone di baccalà, due frittelline, il caffè, l'ammazza caffè, non è proprio un pranzetto leggero. Sono pochi bocconi. Ma lei vive così. Sola, una famiglia? Certo, vivo da sola. Ma famiglia, figli? No, sono zitella. Zitella. Vabbè, le do un libro che a lei non serve, ma glielo do proprio per questo, per essere infame, perché è bellissimo, l'allestimento di un pranzo solitario, è stupendo. È di Giulio Perrone, non posso dire naturalmente l'editore, Consigli pratici per uccidere mia suocera. Lo dico a lei che non ha una suocera, quindi probabilmente sarà sicuramente un addestramento che non procurerà vittime, per questo sono contento. Silvana? No. Buongiorno Gianluca, sono molto felice di poter parlare con lei. E vedrò di rovinare questa felicità. Cosa ci sarà di infame il giorno di Pasqua? Allora, il mio menù, adesso devo ancora fare la spesa, comunque più Vabbè, o meno saffretti, le idee ce le ho. Siamo arrivati, ormai le cose migliori già se le sono vendute tutte. Fa niente, ma tanto io devo comprare... Allora. Domani è sabato, è tutto chiuso. Vado adesso. Quando finisco di parlare con lei vado a fare la spesa. Ma pesci migliori sì, sono allora, già comprati tutti. Allora, il menù come antipasto una nizzarda. Ma l'insalatina, sì. Non è un'insalatina. E che è? Fagiolini, patate... Ah, è insalata, dai. Un po' di verdura lessa buttata in un piatto. Poi? Poi? Fagiolini, insalata, con le uova sode, l'acciughina. Sì, sì. Ecco, questo poi? È l'antipasto. Poi passiamo al risotto, sì. Alla curcuma. Sì. Vabbè, così, perché voglio stare una concessione, giallo, una concessione esotica. Beh, ma lo zafferano pure è giallo, perché ci mette la curcuma. Anche lo zafferano, ma... Costa allora, meno. Siccome i miei invitati non hanno mai assaggiato la curcuma... volevo cogliere l'occasione per gli dà la curcuma vabbè, c'è un bello odorino quando la cucina così la sentono anche profumata, la sentono dal gabbiotto così. Del portiere al lavatoio all'ultimo piano. Poi, va bene. Siccome a loro so che piace molto la carne, io l'antipasto lo faccio di verdure. Questa è l'infamità. E cosa gli dà poi invece il secondo? Così non gli faccio mangiare prosciutto, niente. Tutte queste cose. E però li sorprende con il secondo. Il secondo invece è vitello tonnato, perché a me piace molto, anche se è carne. E poi, scusi, ma non sa il vitello tonnato è un omicidio a 360 gradi. Perché? Uccide il tenero vitellino, capito? Il treno vitellino che gli fa e il povero tonno, il tonno è muto, non dice niente. Beh, quindi, è il vitello comunque, pensi, la carne di manzo, di vitello si mangia. E perché scusi, l'agnello è meno del, più del vitello? Normalmente, ma io non lo faccio per una questione. E pensi la povera tonda che vede il suo tonnicino messo nel piatto assieme al vitellino a casa sua. È crudelissima, quindi la sua crudeltà viene premiata. Renata Pisu, Mille anni a Pechino, storia e storia di una capitale, un libro bellissimo sulla Cina, non c'entra niente con la curcuma, ma comunque si avvicina a questa idea esotica di queste puzzettine che si sentono normalmente nei souk periferici. Andrea? Pronto? Andrea, abbiamo 3 minuti, si sbrighi. Ok, pronto? Fare... Sì. Mi sente? Sì. Ok, la mia sofferenza è mangiare ciò che mi piace, nel senso che io mi ritrovo a 40 anni ad aver avuto degli attacchi di gotta. La gotta è sì, la malattia. Ho capito, lo so. Ecco. Quindi mi concederò un castrato che è praticamente parente stretto dell'agnellino, io l'agnellino non lo mangio onestamente. E il castrato e quindi... non fa male alla gotta? No, fa male. Io praticamente rischierò per concedermi un lusso, tra virgolette, a Pasqua. Quindi io magari il giorno dopo starò male come un cane. Cioè, se uno deve rischiare la propria salute, rischiarla per un castrato. No, adesso no, la rischi per qualcosa che... Ho esasperato la cosa, ovvio. Però mi voglio concedere questa cosa, che adesso me la posso fare ovviamente una volta ogni tot tempo, una cosa molto... La botta di vita la può fare una volta ogni tanto, e questa botta di vita le sceglie il castrato. Ognuno ha i suoi gusti. Le regalo Paolo Pillitteri, Tutto poteva accadere, quindi anche lei può accadere che guarisce dal suo problema e si castra tutte le volte che vuole, cioè si mangia il castrato tutte le volte che vuole. Gennaro, penso chiuderò con lei. Gennaro, veloce. Gennaro. Chissà, la gente telefona e poi lascia il telefono lì e va a ascoltare la radio. Gennaro, se vuoi il libro devi rispondermi. Vabbè, niente, non mi risponde Gennaro, che devo dire? Mi dispiace per lui. E io la chiudo da solo la trasmissione. Gennaro mangia costolette e maiale, fave e finocchi del suo orto. Vabbè, niente di originale. Cosa ho visto e cosa ho ascoltato? Chi ascolta con attenzione la radio sa bene che le voci degli ascoltatori al 90% erano meste, quindi l'obbligo di fare qualcosa di particolare, di diverso, anche se fa parte dei piaceri culinari, è qualcosa che comunque viene visto come un obbligo, come un peso. Le tradizioni costano fatica, essere comunque ligi a quelli che sono dei costumi familiari tramandati generazione in generazione è un grande peso. All'insegna della leggerezza sarebbe immaginare che la Pasqua, per chi ha un motivo religioso, una motivazione religiosa, sia una bella festa, ma per gli altri sono giorni in cui si sta tranquilli e non si è obbligati per forza a infilare qualcosa nel forno e a infilare qualcosa in bocca, che non è sempre il massimo. Alla prossima.